La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti e ben ritrovati alla Rosa Purpurea, l'appuntamento settimanale qui su Radio 24 con il cinema. È una puntata molto molto ricca, parliamo della Festa di Roma, dei film che da Roma e anche dalle distribuzioni arrivano nelle sale italiane. Non sono molti questa settimana, 4, la prossima saranno 9, già non capiamo come si faranno a vedere tutti. Avremo però anche una nostra inchiesta che vi invito sin d'ora ad ascoltare. Che fine ha fatto il cinema d'essè, cioè il cinema vecchia maniera, quello monosala, nel centro delle città? Negli ultimi 5 anni più di 300 sale hanno chiuso nei centri storici delle nostre città. Ne parleremo con tanti ospiti, fra i quali anche Gabriele Salvatores. E ancora avremo nel finale di questa trasmissione il primo di due focus sui presidenti americani nella storia del cinema, visto e considerato che ci avviciniamo all'importante evento delle elezioni presidenziali a stelle e strisce. Andiamo subito quindi a scoprire i primi sapori dei 4 film che arrivano nelle sale in questa settimana nel nostro audio sommario. Dai, vabbè, ma io le serate gangster le faccio così per gioco, per divertirmi. Sai fare quello che faccio io? Fotografate questo! I miei attrezzi sono le emozioni. Lazarus ha affrontato una procedura di alterazione della pigmentazione per impersonare il sergente afroamericano. Aie! Lei è un assassino, signor Turop. Sì, il peggiore. Ora entri in macchina. Che stai facendo? Perché non mi hai detto la verità? Ti rendi conto che hai messo le mani nella mia borsa? Che mi hai spiato? Perché non me l'hai detto? Cosa? Che vuoi sapere? Hai rivisto Pietro a Milano? Sì, ci siamo visti. Perché non me l'hai detto? Perché era più giusto dirti una bugia. E come dicevamo, cominciamo parlando dal film che da Roma arriva nei nostri cinema e anche per cominciare a fare una prima incursione nel Festival Romano. È in collegamento con noi Boris Sollazzo, proprio dalla capitale, che sta seguendo l'evento giunto alla sua terza edizione. Un saluto, Boris. Ciao Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Effettivamente siamo arrivati alla terza edizione di questo festival, ci eravamo appena abituati a chiamarla festa, adesso dobbiamo chiamarla festival. È cambiata la gestione politica ed è cambiato anche il focus, non è più sull'America ma sull'Europa, e si apre con un film italiano, L'uomo che ama, un film che ha lasciato, devo confessarti, molte perplessità. Questo dolore d'amore al maschile è qualcosa di inconsueto per il cinema italiano, in effetti, però forse non troppo inconsueto, nel senso che Maria Sole Tognazzi insiste moltissimo sul dolore di Pierfrancesco Favino, come al solito molto bravo, però non racconta nulla di nuovo né agli uomini né alle donne. Dovrebbe avere il respiro e l'originalità della colonna sonora di questo film, che è stata fatta da Carmen Consoli, che come al solito invece arriva ruvida, arriva anche molto calda e dà forza al sentimento. Ecco. Andiamo a sentire allora qualche dichiarazione della regista Maria Sole Tognazzi e poi torniamo a parlare con Boris Sollazzo del Festival di Roma. Una delle barriere che mi sembrava interessante buttare giù è il fatto che appunto gli uomini vivano in maniera diversa dalle donne le relazioni d'amore. Secondo me non è così, ma io sono stata contornata da maschi, perché i miei fratelli, che sono 3, sono tutti e 3 appunto dei maschi, sono anche la più piccola, perciò ho avuto modo di vedere le tante fidanzate, le tante storie, le tante lacrime e i tanti sorrisi anche, perché insomma poi il film racconta anche la fase dell'innamoramento. Sei cresciuto in una famiglia di cinema, per te è stato il naturale approdo la regia? Ma oggi ti dico di sì, perché è diventato il mio lavoro, perché lo amo e perché penso di saper fare solamente questo. Però onestamente quando ero piccola, intendo, non avevo in mente di occuparmi di cinema. Quando eri piccola tuo padre ti portava sul set, hai ricordi di set? Non mi ricordo di set, io ho iniziato a vedere i film di mio padre dopo la sua scomparsa, sì. Pensa un po', per conoscerlo un po' meglio. Maria Sole Tognazzi, regista dell'Uomo che ama, nelle sale cinematografiche italiane da questo fine settimana, primo fra i film del Festival di Roma, che in questi primi giorni ha avuto già personaggi di grande spessore internazionale, da David Cronenberg ad Al Pacino. E noi vogliamo dare attenzione alla presenza di Al Pacino a Roma, perché c'era un premio da ritirare, un premio alla carriera che non andava però solo a lui, ma all'Actor Studio di New York, la più grande scuola, diciamo, del cinema, di recitazione del cinema americano del Novecento, quella che che ha forse cambiato anche con il suo metodo il modo di recitare e ha soprattutto sfornato attori strepitosi. Appunto, Al Pacino è forse l'elemento più importante e più evidente. E allora andiamo ad ascoltare dalle parole dell'attore qual è secondo lui il senso dell'esperienza dell'Actor Studio. The Actor Studio has been the most important thing to me in my young career and as I continued in life. L'Actor Studio è stato importantissimo per me quando ero giovane e lo sarà per la vita. È gratis, non in molti lo sanno, ma lo è. Chiunque può decidere di partecipare alle audizioni e se le passi sei dentro, sei membro per sempre, con tutto quello che comporta. Negli anni 60, quando ero un giovane attore, ancora inesperto, frequentavo seminari di recitazione, di scrittura, di regia e poi ci esercitavamo con Lee Strasberg. Con lui sperimentavamo. Strasberg alla fine era anche un grande amico, abbiamo lavorato assieme ed è stato un sogno che si avverava per me. Lui era il guru della recitazione. All'inizio è stato stupefacente, ma poi, in fondo, lui era un attore, come me. Quando lavori con un attore ti capisci e quello che fai lo fai assieme. The guru of acting. And when you work with an actor, you understand what we do together. Boris, abbiamo sentito Al Pacino sull'Actor Studio. Si è lasciato andare anche a qualche anticipazione sui suoi nuovi progetti? Sì, ha addirittura confessato che poteva portare un film a Roma, perché c'è questo Sole Maybe, terzo film da regista, molto vicino in qualche modo ai film teatro cinematografici che aveva fatto in questi ultimi anni, una ricerca su Oscar Wilde, è molto contento di questo film su cui lavora addirittura da 3 anni e ha promesso, voleva portarlo adesso, ne ha portato solo alcuni secondi nel bellissimo incontro con il pubblico in cui si sono viste tutte le sue migliori interpretazioni, ha promesso che cercherà di portarlo il prossimo anno, quindi aspettiamo questo Sole Maybe di cui lui sarà regista e protagonista. Grazie a Boris Sollazzo, buona festa o festival del cinema di Roma e noi ci sentiamo la prossima settimana perché nelle sale arriveranno altri film proprio dal Festival della Capitale e quindi ci sarà la possibilità di fare un bilancio su questa edizione. Grazie a Boris. Grazie a te. La Rosa Purpurea. E siamo alla seconda parte della Rosa Purpurea. Abbiamo parlato di un festival, il Festival di Roma, con l'uomo che ama, che arriva nelle sale cinematografiche italiane. Prima di passare alle altre proposte cinematografiche del weekend, un piccolo spazio dedicato a un altro festival, perché c'è un cinema italiano che funziona molto anche al London Film Festival, in corso nella capitale britannica fino al 30 di ottobre. Sono stati presentati diversi film italiani che hanno avuto il grande applauso del pubblico. Noi vogliamo focalizzarci su un film. Si intitola Sono Viva, ed ha avuto davvero particolari elogi dalla critica e dal pubblico del London Film Festival. Lo dirigono due fratelli, potrebbero essere i nostri fratelli Coen, chi lo sa, si tratta di Filippo e Dino Gentili. Il film ha un cast tra l'altro molto importante, citiamo già Giorgio Colangeli e Giovanna Mezzogiorno, Marcello Mazzarella, tanto per dare 3 nomi. La trama è davvero molto interessante, molto intrigante, racconta di un giovane operaio con problemi economici e anche affettivi, che una sera accompagna un amico in una villa dove c'è la possibilità di guadagnare qualche soldo facendo semplicemente i sorveglianti. Arrivato in questa villa però il ragazzo scopre il corpo senza vita della figlia del proprietario. Il film racconta la notte del protagonista e gli incontri che farà e che lo aiuteranno a svelare il mistero che sta dietro quella morte. Una storia molto originale. Noi abbiamo voluto chiedere a Filippo Gentili come è nata l'idea di questo film e come è riuscito in un film a budget piuttosto ridotto, circa €500.000, a mettere dentro così tanti attori importanti, a partire proprio da Giovanna Mezzogiorno. Lo spunto è uno spunto letterario di tanti secoli fa, perché c'è una vicenda analoga accennata nell'Asino d'Oro di Apuleio, uno dei primi romanzi della letteratura latina e occidentale. Giovanna è una grandissima attrice, è anche una persona disponibile a cavalcare progetti piccoli sulla carta, ma citerei anche Colangeli, insomma, Guido Caprino, Marcello Mazzarella e poi il protagonista Massimo De Santis, sulle cui spalle si poggia praticamente tutto il film, che anche qua a Londra ha avuto veramente un successo personale straordinario. Speriamo quindi che presto il film di Dino e Filippo Gentili, Sono Viva, possa trovare una distribuzione ed essere visto anche in Italia, come merita. Concentriamoci però sui film che già si possono vedere. Andiamo al cinema americano. Tropic Thunder, Ben Stiller, un film di carattere parodistico. Questa volta nel macinino finisce il cinema bellico americano, ma anche alcune smanie di protagonismo degli attori di Hollywood. Ci racconta il film Diego Giuliani. Realizziamo il più grande film di guerra di sempre! Sembra di fare sul serio! Esatto! Buttateci! Le ambizioni sono quelle che avete sentito, fare meglio di Oliver Stone con Platoon e Stanley Kubrick con Full Metal Jacket messi insieme. Peccato però che, come avrete capito da queste poche battute, gli uomini a disposizione ricordino più che altro la sgangherata armata Brancaleone di Monicelli. Nessun paragone, per carità, tanto più che alle spalle dell'operazione c'è un maestro della comicità demenziale come Ben Stiller. Di nuovo alla regia, dopo titoli come Giovani, Carini e Disoccupati e Il Cal di Nicchia, Zoolander, torna a spopolare anche sul set nei panni di un attore in declino che cerca il rilancio nei panni di un novello e improbabilissimo Rambo. Anno duro per Tag Speedman. Simple Jack, la storia di un bracciante agricolo debole di mente, al botteghino è stato un disastro. Tu mi fai pizzicare il mio uccellino. Auspicato trampolino per il rilancio è un catastrofico progetto dal titolo appunto di Tropic Thunder, film di guerra ambientato su una sperduta isola esotica che finirà per trascinare in un vero conflitto anche i suoi altrettanto disastrati compagni di set. Dall'incontentabile pluripremiato Oscar pieno di ossessioni interpretato da Robert Downey Junior alla star cocainomane di una serie comica di bassa lega a cui Jack Black presta il volto e non solo. Ehi, fanculo, sai fare quello che faccio io? Oh, cafone! Concertini a parte, il film prosegue con una serie di gag certamente per palati non proprio raffinati. Non mancano lessico greve e qualche caduta di stile, ma anche negli eccessi il vernacolo da trincea fa il verso ai camerateschi botta e risposta dei migliori film di guerra. Sviluppi della vicenda a parte, la comicità resta comunque senza troppe ambizioni, tanti modelli in filigrana, ma nessuna satira graffiante nonostante i numerosi obiettivi che tra cinema e politica sarebbero comunque stati a portata. Primo a non prendersi sul serio è però proprio Ben Stiller, che riassume così lo spirito del film. Non ho niente contro nessuno e non voglio prendermela con nessuno. Per me il film è stato divertente perché ci ha offerto la possibilità di rappresentare una guerra nella guerra, che in fondo è il nostro lavoro. Fare film può diventare spesso ridicolo, soprattutto quando si tratta di blockbuster. E proprio per questo dico che è stata per tutti noi un'opportunità preziosa per svuotere un po' questo mondo e non prenderci troppo sul serio in termini soprattutto di ambizioni, premi, carriera. C'è sicuramente qualche elemento di verità, ma lo ripeto, credo che gli attori siano capaci di una grande autoironia. As I said before, I think actors have a really good sense of humor about themselves. Medaglia al valore, fra tanti botti e un po' troppo clamore, va però sicuramente a due comprimari d'eccezione: il pallonaro Nick Nolte, presunto veterano del Vietnam che trascina tutto il gruppo nei guai, e poi l'irriconoscibile Tom Cruise, con i suoi 20 kg in più e tanti tanti capelli di meno, dissacrante e divertentissimo nel ruolo del produttore, fino all'ultima scena. Ed eccoci arrivati alla prima tappa del DVD Game di questa settimana. Come sempre vi faremo ascoltare tre dialoghi di un film misterioso che voi dovrete indovinare rispondendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Ci sono in palio due DVD proprio di questo film. Ascoltiamo la traccia. C'è rimasto male. Chi? Il mio mulo. Se l'è presa per quei quattro colpi che gli avete sparato tra le zampe. E adesso non sente ragioni. Ci stai prendendo in giro? No, io ho capito subito che volevate scherzare, ma lui invece si è offeso e ora pretende le vostre scuse. La Rosa Purpura, @radio24.it, più tardi ancora due possibilità di indovinare di che film si tratta. Partiamo ora per lo spazio cosmico. Ritorna un autore francese che aveva cominciato davvero col botto con un film come L'Odio, La Haine, lo ricorderete, che aveva anche aperto la strada a un attore come Vincent Cassel. Stiamo parlando di Mathieu Kassovitz, che torna appunto con una storia di fantascienza che si intitola Babylon AD. L'ha visto per noi Francesco Bianco. Il genere umano non merita di essere salvato. Per tutti loro io sono solo un mercenario, uno scarto della società. Mi hanno dato la caccia per anni. ex veterano dell'esercito che la vita ha trasformato in un mercenario pronto a tutto deve svolgere una missione semplice: portare una donna, anche bella, dalla Russia a New York. Ma ovviamente niente come sembra. La ragazza ha subito una mutazione genetica da parte di una setta. All'interno del suo splendido corpo si nasconde un virus letale che si nutre di lei, ma la minaccia incombe su tutta l'umanità. Devi fare una consegna. Che tipo di carico? Una ragazza deve arrivare a New York tra 6 giorni. Sta attento, è speciale. Film dalla vita difficile questo, con difficoltà piuttosto serie tra la produzione e il regista, quel Mathieu Kassovitz che dopo un debutto eccezionale con L'Odio sembra aver perso la capacità di dimostrare il suo talento. Il montaggio è stato praticamente abbandonato dal direttore e quindi il film è stato snaturato, almeno speriamo. Mi difendo io. Mi difendo da sola. La sceneggiatura è molto più che banale, anche se l'ambientazione, che cita capolavori come Blade Runner, è affascinante e il protagonista Vin Diesel ha il physique du rôle. La pellicola per intrattenere intrattiene anche come fosse un videogioco, ma ahimè lo spettatore non ha il joystick. L'avete senz'altro riconosciuta, è una delle colonne sonore più famose della storia del cinema, La Pantera Rosa di Henry Mancini, perché questa settimana la nostra rubrica Trailer USA, che vi dà in anticipo i suoni del nuovo cinema americano, si concentra proprio sul ritorno di questo personaggio riportato sugli schermi da Steve Martin recentemente dopo la saga della Pantera Rosa di Blake Edwards con Peter Sellers tra gli anni 60 e 70. Ebbene, ci sarà una Pantera Rosa 2, un Pink Panther 2 all'inizio del prossimo anno più o meno negli Stati Uniti. Noi cerchiamo di scoprire di più dal trailer che è già in circolazione insieme alla nostra Micaela Bellisario. Ciao Franco, sì, questa settimana vi anticipiamo il primissimo trailer uscito sulla Pantera Rosa 2, che dovrebbe uscire nelle sale americane addirittura il prossimo anno, si parla di febbraio. Esiste solo questo trailer in circolazione. Nel cast, come dicevi, c'è Steve Martin, ma ci sarebbero anche attori di razza come Jean Reno, Alfred Molina e Andy Garcia. Invece della trama, come dicevi, si sa ancora poco. Stavolta l'ispettore Clouseau è in trasferta negli Stati Uniti per catturare un ladro esperto in antichità che torna a delinquere dopo anni di inattività e che si chiama il Tornado, insomma un nome che è tutto un programma. Ora vi facciamo ascoltare il trailer, ripeto, è l'unico che c'è in circolazione, in cui, mostrando il suo tesserino professionale, l'ispettore Clouseau tenta di comprare 2 biglietti in un cinema americano, che però gli vengono negati perché sono finiti, e il grande poliziotto è costretto a un dietrofront umiliante, goffo, tra i bambini in fila. Excuse me. Yes, I would like a ticket for one, please. Sorry, we're sold out. Sold out? I would like a ticket for one. There are no more tickets available. Hey, mister, hurry up. I'm Inspector Jacques Clouseau, the French police. One little ticket. I don't care who you are. There are no more tickets available. E in attesa di sapere quando vedremo La Pantera Rosa 2 in Italia, noi chiudiamo lo spazio con Trailer USA questa settimana. Appuntamento fra 7 giorni. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. E linea ora alla regia, fra poco torniamo insieme qui alla Rosa Purpurea. C'è ancora un film di cui parlare, Alba Chiara, e poi la nostra inchiesta esclusiva, Chi ha ammazzato il cinema paradiso? Le difficoltà del cinema d'essai, la chiusura delle sale nei centri cittadini. La Rosa Purpurea. Ed eccoci alla terza parte della Rosa Purpurea. Abbiamo ancora un film di cui parlare, l'ultimo in uscita nelle sale italiane questa settimana. Si intitola Alba Chiara con la K, come si conviene alla generazione SMS. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria. È arrivato spinto da un pomposo battage le canzoni di Vasco Rossi, a partire da quella del titolo che, con la delicatezza di una C al posto dell'aggressiva K, ha fatto sognare una generazione di maschietti. Con una mano ti sfiori, ricorderete, tu sola dentro la stanza. Il figlio di Vasco Rossi, Davide, fra i protagonisti, e poi quella posizione forse un po' snob, è la risposta agli adolescenti dei film di Moccia. Ne siamo proprio sicuri? Quando ci sei, mi accorgo che se non ci sei mi manchi. Ma che stai a dire? È davvero difficile raccontare Alba Chiara, o forse sin troppo facile. Verrebbe da cominciare così. La ragazzina trova nella cantina della bottega dello zio salumiere e spacciatore 200 kg di cocaina, solo la refurtiva di un colpo effettuato da due poco di buono in combutta con un ispettore corrotto, con l'ausilio di un bidello, anche lui cocainomane e spacciatore, e di un DJ pornomane, in questo film non si salva assolutamente nessuno, la metteranno allegramente sul mercato, lasciando tante di quelle tracce che segneranno il proprio destino. Fine della storia. Che potrebbe essere una delle tante banali storie da B-movie americano, e persino con qualche TVTB in più, un film di moccia per rastrellare milioni di euro nelle tasche dei tredicenni italiani. Invece no, Alba Chiara non è nulla di tutto questo, è un film brutto. Sì, tra un po' torno. Sì, Vincenzo è qui che ti saluta. A dopo, ciao. Mia mamma, che se non mi sente va in crisi, va. Il regista Stefano Salvati, un passato nel videoclip che si vede in ogni fotogramma, non sceglie mai una strada. Commedia sguaiata, noir poliziesco, qualche venatura horror, erotico, surreale. In questo senso le animazioni delle cicogne in volo nella labile mente della povera sorella della protagonista, personaggio peraltro senza senso, gridano vendetta, alla ricerca di un centro che il film non trova mai. Ma quel che personalmente, chi conosce questa trasmissione sa che raramente parlo in prima persona, ma qui bisogna anche un po' schierarsi. Dicevo, quel che personalmente mi ha più disturbato è il ritratto di una generazione senza valori, senza speranza, solo droga, rave party, filmini porno su internet. C'è persino una gara di sesso orale, e non vado oltre perché non voglio diventare complice del cattivo gusto che permea un po' il film. Ora, lo so che il mondo è difficile, che i nostri ragazzi sono sempre molto più spregiudicati di quel che ci immaginiamo, ma sono certo che giovani validi, in possesso di qualche valore ideale che non gli abbiamo ancora stracciato del tutto, ce ne siano e come. E quel che manca in Alba Chiara è una presa di distanza da questi comportamenti, e quando non si prendono le distanze fa capolino l'apologia. La bella stupidina che si sniffa la torta alla cocaina nei bagni della scuola insieme al bidello, come la vogliamo classificare? Soffia. Allora sai cosa faccio? No, dai, animale, che cazzo fai? Purissima cazzo! Proviamo a rifarci con la seconda traccia del DVD Game di questa settimana. Abbassate quell'arma. Sono John Baxter, lo sceriffo. Allora, già che siete lo sceriffo, pensateci voi a seppellirli. La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi ci sarà un'altra possibilità per concorrere al nostro DVD Game. C'è poco da fare. Più pesante è l'uomo, più profonde sono le sue impronte. Se poi c'è di mezzo l'amore, soffre, perché sape d'essere in una strada senza uscita. Com'è bello quello che dici. Non l'ho detto io. Lo diceva John Wayne nel Grande Tormento. Che imbroglione che sei, Alfredo! Chi ha ammazzato il nuovo Cinema Paradiso? 315 cinema tradizionali, monosala, spesso nei centri delle grandi città, hanno chiuso i battenti negli ultimi 5 anni. Sono stati sconfitti dall'appiattimento culturale, dal trionfo della TV spazzatura, certo, ma anche da politiche comunali tese a privilegiare, in quei luoghi dove venivano proiettate emozioni, centri commerciali o, peggio, nemesi beffarda, megastore di DVD. Al tema della scomparsa delle monosale e alla difficoltà dei cinema de sé, La Rosa Purpurea vuol dedicare un'inchiesta, nata dalle chiacchierate con gli esercenti alle recenti giornate professionali della FICE ad Asti. Senza le sale tradizionali, i film di qualità, i piccoli italiani, quelli europei, quelli più esotici o indipendenti, non trovano spazio e il pubblico, non sempre disposto a migrare nei multiplex, si disamora. -6% nei primi 9 mesi del 2008. Mario Lorini, presidente della FICE, Federazione Italiana dei Cinema de Sé. Ma dunque, il cinema de sé non sta bene, nel senso che è in atto una crisi dovuta alla mancata crescita del pubblico, no? E paradossalmente nel momento in cui la produzione italiana offre anche uno dei suoi momenti migliori. Noi siamo molto felici che il mercato italiano stia in una quota sul 30%, ci sono stati dei fenomeni che tutti conosciamo, Gomorra e il Divo, però questo non basta. Il settore de sé soffre perché collocato nelle medie e piccole città non riesce a sopravvivere alla crisi proprio per le dimensioni delle strutture. Prendiamo un caso, quello di Milano, e ve lo sottoponiamo con una sorta di filastrocca. Abadan, Abanella, Abanera, Alce, Ambasciatori. Non è uno scioglilingua, ma la lettura dell'inizio dei tamburini, la lista dei cinema milanesi degli anni 70. Alla sillaba Am eravamo già a 5 sale, oggi sono tutte chiuse. 20 anni fa sulla via del cinema, come veniva chiamato Corso Vittorio Emanuele, affacciavano 20 sale, oggi solo 3, Odeon, Apollo e Arlecchino. L'unica a un solo schermo, piccola e resistente, chissà per quanto. Niente più Astra, Ambasciatori, Pasquirolo, Corallo, Mediolanum, Excelsior, Mignon, Corso. Nel giro di una decade scarsa. Risultato? Corso Vittorio Emanuele di sera è un mortorio. L'esempio è milanese, il problema nazionale. Senza cinema i nostri centri storici si sono impoveriti. Bisognerebbe dare un premio a chi tiene aperto un cinema in città, riconoscergli un valore sociale, anche economicamente. Invece, contraddicendo se stesso, lo Stato finanzia i film di qualità, spesso presunta, con l'articolo 28, e poi non ne sostiene la visibilità nelle sale. Ancora Mario Lorini. C'è un problema di sostenere un certo cinema di qualità nel suo inizio tragitto. Lo dobbiamo sostenere prima che il film esca, lo si smonti e non abbia una sua vita, perché molto spesso la vita di un film attraversa anche un periodo che è fatto di passaparola, di tempo, e questo è quello che noi chiediamo. E di più, il problema è anche culturale. Il cinema de sé ha sempre aperto nuove strade, poi frequentate dal cinema di massa, come spiega il premio Oscar Gabriele Salvatores. Qualsiasi industria, anche l'industria di automobili, ha bisogno di un settore di ricerca particolare. Il cinema de sé ha permesso a me e a tanti altri, a tutti gli spettatori che ci sono andati e continuano ad andarci, di vedere un cinema un pochino più particolare, che chiede al pubblico di essere attivo. E siccome, come diceva Bertolt Brecht, chi si arroga l'onere e l'onore di fare l'artista ha almeno il dovere di stare almeno un passo avanti al suo pubblico, non dico 10 per non perderlo di vista, ma almeno uno. Queste zone libere, queste isole di pirati che sono le sale de sé vanno difese in tutti i modi, perché il cinema de sé di qualità d'autore è la punta di diamante, senza quello non c'è nient'altro sotto, quindi per me sono fondamentali. Ma le sofferenze del cinema de sé sono reversibili? Il pubblico c'è ancora? E come fanno a resistere benemerite case di distribuzione con un listino a volte di 4-5 piccoli film all'anno? Prova a rispondere Vieri Razzini, critico cinematografico e fondatore della Teodora, marchio specializzato nel cinema di qualità. La cosa fondamentale è avere un successo almeno ogni 3-4 film, altrimenti si chiude, insomma. Secondo me c'è il pubblico, c'è ancora il pubblico, che però forse tende a restringersi un pochino. Ogni volta si dà la caccia a un pubblico più giovane, quello in realtà risponde o in minima parte o non risponde affatto. E come lo si porta al cinema questo pubblico? Come lo si mette a contatto con questi film? C'è chi ce l'ha fatta. Lionello Cerri, patron dell'Anteo e dell'Apollo di Milano. I pubblici sono tanti a livello di censo, a livello di età, a livello socioculturale, e quindi per ogni pubblico devi vestirgli una proposta. E vestendogli una proposta devi anche pensare a un prezzo, devi anche pensare a un orario, devi anche pensare a un contenuto collegato al film che vai a proporgli, dal pasticcino e il tè al dibattito con il regista. Per cercare di riaggiustare il dato del 2008, il cinema de sé programma una pacifica invasione natalizia. Mai come quest'anno lo spettatore che non vuol mangiare il cinepanettone avrà valide alternative, da Baby Love, commedia francese sull'adozione gay, al Povero milionario, strepitoso ritorno di Danny Boyle, il regista di Trainspotting, e soprattutto Come Dio comanda, il nuovo film di Gabriele Salvatores, che spiega così la scelta dell'uscita natalizia. Sono molto contento anche della scelta di questa cosa, non lasciare nessun territorio in mano all'avversario solamente, ma essere presenti sempre anche nei momenti che sembrano dedicati solamente al divertimento e all'entertainment è importante. La nostra inchiesta sul cinema de sé, cercheremo ovviamente di tenervi aggiornati anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, sugli sviluppi di questa battaglia per il riconoscimento dell'importanza sociale dei cinema vecchia maniera, dei vecchi cinema cittadini. A questo punto noi diamo un'occhiata, tanto per parlare appunto di botteghino, a quello che è successo 7 giorni fa al box office. C'era l'arrivo nelle sale massiccio del robottino Wall-E, il nuovo film della Disney. Sentiamo com'è andata da Daniela Fagion. Un film film d'animazione torna a dominare il botteghino. Rimane in top 5 per un pelo Disaster Movie, la parodia dei blockbuster con Carmen Electra, incassa altri 630.000 euro e raggiunge 1.900.000. Quarto l'italianissimo No Problem, che aggiunge 850.000 euro all'incasso della prima settimana e sfiora i 2.800.000. Resta sul podio ma perde lo scettro Mamma Mia, che supera comunque l'onorevolissimo 1.100.000 e veleggia oltre i 5.800.000 euro. Ho trovato il diario di mia madre e ho tre possibili padri. Debutta al secondo posto il menage pensato da Woody Allen per Vicky Cristina Barcelona, oltre 1.600.000 per il trio Johansson Cruz Bardem. E in vetta c'è il solitario robottino Disney Pixar Wall-E, che salva il mondo dai rifiuti con 2.600.000, inseguendo l'evolutissima Eva. Eva. E linea ora alla regia, fra poco la quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea si aprirà con un piccolo focus sul London Film Festival, nel quale hanno ben figurato i film italiani. Non mancherà ovviamente lo spazio per giocare insieme con il nostro DVD Game. La Rosa Purpurea. Ed eccoci arrivati alla quarta e conclusiva parte della nostra Rosa Purpurea, del nostro programma. Fra poco ci occuperemo di DVD con Claudio Pofi. Prima però apriamo una parentesi sulle elezioni americane. Lo facciamo questa settimana e anche la prossima, nell'imminenza di quello che è il grande evento, il grande martedì elettorale negli Stati Uniti. È sempre un momento importante per la democrazia di tutto il mondo, perché è chiaro che stiamo per eleggere quello che una volta era, forse lo è ancora, magari un po' meno di un tempo, l'uomo più importante e più potente soprattutto del pianeta. E allora come il cinema ha raccontato la figura del presidente americano? Lo abbiamo analizzato in due tranche, appunto. Oggi ci occupiamo dei presidenti veri, delle biografie, di come i veri presidenti americani sono finiti in celluloide, e invece la settimana prossima lavoreremo sulla figura presidenziale di fantasia. Cominciamo quindi con questo lavoro curato dalla nostra Chiara Pizzimenti. Chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985? Ronald Reagan. E il vicepresidente chi è? Jerry Lewis? Lo staff presidenziale non era proprio quello paventato da Doc nel primo episodio della serie di Ritorno al Futuro, ma certo nel 1985 Ronald Reagan, una carriera a Hollywood fatta soprattutto di B-movie, era alla guida degli Stati Uniti, caso unico per ora di star del cinema diventata presidente. Ma Arnold Schwarzenegger, governatore della California, è in pole position per la scalata e già qualcuno lo sognava alla Casa Bianca in Demolition Man. Molta più fortuna a Hollywood ha avuto George W. Bush, protagonista di W Film di Oliver Stone, che sarà al Festival di Torino e che indaga gli anni giovanili dell'attuale inquilino della Casa Bianca, che è anche stato ucciso al cinema. Death of a President, morte di un presidente, finto documentario in cui rimane vittima di un attentato. Durissimo il tono di Fahrenheit 9/11, il documentario di Michael Moore, che attaccava l'amministrazione Bush dopo gli attacchi dell'11 settembre. Moore aveva già manifestato la sua avversione per il presidente, ricevendo l'Oscar per Bowling at Columbine. We are against this war, Mr. Bush. Shame on you, Mr. Bush. Shame on you. I due presidenti che hanno avuto però più spazio a Hollywood sono Richard Nixon e John Fitzgerald Kennedy. Sempre Oliver Stone nel 95 aveva diretto Nixon, biografia del repubblicano dimissionario interpretata da Anthony Hopkins. In arrivo è invece Frost Nixon di Ron Howard, che ricostruisce le interviste del 77 del presentatore TV David Frost all'ex capo della Casa Bianca, costretto alle dimissioni dallo scandalo Watergate. E non c'è film che meglio racconti quella storia di tutti gli uomini del presidente, Robert Redford e Dustin Hoffman nei panni dei cronisti del Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward. La metà del paese non ha mai sentito parlare del Watergate. In questa storia non c'è niente in gioco, a parte il primo emendamento della Costituzione, la libertà di stampa e forse anche il futuro del paese. E Nixon è anche fra gli inquilini della Casa Bianca, incontrati da Forrest Gump, insieme a Kennedy. Il presidente assassinato a Dallas è protagonista, apparendo solo in immagini di repertorio di JFK, un caso ancora aperto. Di nuovo Oliver Stone alla regia. In 13 Days si racconta invece la crisi dei missili di Cuba. Da Dallas, Texas, una notizia apparentemente ufficiale. Il presidente Kennedy è morto all'una del pomeriggio, ora degli Stati Uniti centrali. Ma Hollywood non ha dimenticato nemmeno i primi inquilini del 1600 di Pennsylvania Avenue, dal presidente della guerra di secessione Abramo Lincoln a Jefferson in Paris, in cui Nick Nolte è il terzo comandante in capo, e ancora John Boyd, Franklin Delano Roosevelt in Pearl Harbor e Robin Williams, statua di un altro Roosevelt, Teddy, in Una notte al museo. Theodore Roosevelt, 26esimo presidente degli Stati Uniti d'America, al tuo servizio. Lo speciale di Chiara Pizzimenti sui presidenti americani al cinema. Settimana prossima avremo invece i presidenti di fantasia. È arrivato il momento di giocare per la terza volta, ascoltare la terza e ultima traccia del DVD Game di questa settimana. Che ti succede, Ramon? Ti trema la mano? Al cuore, Ramon! Se vuoi uccidere un uomo, devi colpirlo al cuore! La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete indovinato, e ormai sono convinto di sì, di quale grande film si tratta. Noi nel frattempo salutiamo il nostro Claudio Pofi che è in collegamento. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, in attesa di vedere chi avrà indovinato questo DVD Game di questa settimana, è davvero un'edizione tra l'altro molto molto bella, ne parleremo settimana prossima, andiamo a sentire una breve tranche delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Abbiamo passato ore al commissariato. Margie era sovraccitata. Tutto il pomeriggio mi ha asfissiato con il proletariato, i bifolchi, la lotta di classe e quel barbuto là, il Che Guevara. Quello che hanno ucciso accanto a noi non aveva neanche 20 anni. Ma cos'è questo paese? Si trattava di Persepolis, il film di Marjan Satrapi, film biografico ma di animazione, molto delicato, molto bello, anche frizzante e divertente, ma su una tematica estremamente seria che è quella della condizione della donna in Iran. Hanno vinto Giuseppe Ionta di Marina di Minturno, provincia di Latina, e Rosa Maria Bonadies di Bari. Allora arriverà appunto il DVD di Persepolis, che il nostro Claudio Pofi ci racconta così. Sì, il film della Satrapi arriva in DVD con un'ottima qualità, ovviamente l'animazione è come sempre favorita in digitale e così è stato anche per questo bellissimo DVD di BIM distribuito da 01. Segnalo che oltre che in Dolby Digital multicanale e in 2 canali in italiano è possibile anche ascoltare il film in francese. Per questo DVD al momento si è pensato solo a un trailer. Nel resto del mondo ci sono altre edizioni più interessanti, ha già avuto ulteriore attenzione il film in Francia, auspichiamo che magari da noi possa uscire anche un'edizione in alta definizione. Andiamo a occuparci adesso dell'uomo verde più grande e potente del mondo, stiamo parlando ovviamente di Hulk, la sua saga cinematografica ormai è destinata a durare. L'ultimo capitolo, l'incredibile Hulk dello scorso anno, è forse uno dei meglio riusciti e dei più interessanti, soprattutto nella prima parte. Ascoltiamo la clip. Ho un problema, ci sono degli aspetti della mia personalità che non controllo. Vai dall'analista. È un po' più complicato di così. Bruce, credimi, ti dico che le ho sentite tutte. Non questa. Distribuisce Universal questa nuova edizione di Hulk, dove al posto di Rick Banner troviamo Edward Norton nei panni dello scienziato Bruce Banner. Un'edizione da parte di Universal è particolarmente attenta nella versione a un disco, a 2 dischi, ma anche in Blu-ray, qualità siamo veramente al massimo delle possibilità, traccia Dolby Digital multicanale italiano e inglese, entrambe da ascoltare, ci sono tantissimi extra, numerosissimi approfondimenti, soprattutto per quello che riguarda la parte in computer grafica, ci sono delle differenze per quanto riguarda i contenuti extra, perché il Blu-ray offre maggiori approfondimenti e maggiore divertimento con ulteriori segreti sulla lavorazione. E chiudiamo con un piccolo grande film, è stato uno dei film d'autore d'essai più belli della scorsa stagione, La Banda, un film che racconta con dolcezza e con durezza contemporaneamente la situazione della convivenza cercata e a volte non trovata fra palestinesi e israeliani. Ascoltiamo la clip. Facevo parte di un gruppo, suonavo tutto, Beatles, e Rolling Stone, Klezmer, tutti i pezzi. Poi un giorno io stavo suonando e lei stava danzando, la guardai e forse per 3 o 4 minuti smisi di suonare. Rimasi impietrito. Distribuisce Dolmen Home Video la storia di questa piccola banda musicale della polizia egiziana di Alessandria che raggiunge questo remoto villaggio in Israele e si perde alla ricerca di questo luogo dove deve esibirsi e sorprendentemente verrà accolta con amicizia dagli abitanti del luogo, degli israeliani. La qualità dell'opera è eccellente, non abbiamo assolutamente nulla da eccepire. È presente, oltre che la traccia in italiano, in Dolby Digital pubblicità multicanale, anche l'originale, quindi è possibile ascoltare i dialoghi in inglese, in arabo e in israeliano, e sono presenti degli interessantissimi extra, perché oltre al making of sono stati fatti ulteriori approfondimenti con intervista al regista, a una serie di attori, costumisti e addirittura il compositore della colonna sonora. Grazie Claudio, con la banda noi chiudiamo anche i nostri consigli in DVD di questa settimana, ci ritroviamo fra 7 giorni con Claudio Pofi. A presto, alla prossima. E si chiude qui la puntata della Rosa Purpura, è stata una puntata davvero ricca e piena di contenuti, l'appuntamento qui su Radio 24 è fra 7 giorni per parlare di cinema, un saluto da Franco D'Assisi.